Tempo di sport con Carlo Genta. Quando si parla di calciomercato? Domani, caro Andrea. E noi siamo di parola, siamo qui apposta per parlarvi, per aprirvi le porte del santuario estivo, quello del calciomercato. Finalmente non ci sono neanche più gli europei che sono una distrazione, e allora si arriva all'argomento preferito dagli italiani. 800 24 00 24 il numero verde. Voi chi sognate per la vostra squadra? Gli juventini credo siano già contenti così. C'è De Laurentiis che si incazza durissimo oggi in assemblea di Lega, poi lo sentiamo e ne parliamo, perché dice che voi criminali giornalisti parlate solo di soldi e fate lievitare tutti i prezzi, allora io vi metto le mani addosso. Poi scopriremo a chi ha tentato di mettere le mani addosso il presidentissimo del Napoli. Intanto io noto che ha ragione da vendere, ragione totale, Fabio Massimo Splendore quando scrive oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport che è tornato il fascino della signora, è tornata la Juve, è tornato il fascino della signora che ha il carrello già pieno da giocatori, insomma, già affermatissimi, anzi super giocatori come sono Isla e Asamoah, due che io prenderei in qualunque mia squadra. È arrivato Lucio, su cui ho un pensiero un po' diverso, e poi torna Giovinco, e poi c'è il Kadri, e poi c'è Paul Pogba, e poi forse c'è Balotelli se non Van Persie, come per riempire la casellina del top player. Ma Fabio Massimo Splendore, buongiorno. Buongiorno a te Carlo, buongiorno a chi ci ascolta. Dunque, è tornato fascino della signora, lo scudetto, lo stadio nuovo da riempire per la prossima Champions, ma soprattutto la sensazione di un certo vuoto di potere di chi sta dietro? Direi di sì. Questo non toglie meriti a quello che sta facendo la Juventus, ma è assolutamente un dato di fatto che, insomma, per chi deve raccontare la realtà e fare il cronista come noi è giustissimo dirlo, insomma. La Juventus si sta muovendo molto bene in un momento storico in cui evidentemente le due milanesi hanno, se non vogliamo dire qualche difficoltà, stanno comunque bistrando. No, ma diciamolo, hanno qualche difficoltà. Sì, probabilmente sì, insomma. Diciamo bonariamente che registrano diversamente le loro strategie, sì. Però ecco, il Moratti sì. Mi sembra proprio in una piena inversione di tendenza rispetto... E beh, sai, se i giocatori inseguiti adesso con tutte le forze sono Silvestre e Handanovic, due buoni giocatori ma non due superstar, insomma, è chiaro che l'Inter non ha idee di o possibilità di tornare ad essere competitiva da subito. Questo sì, anche se poi, Carlo, diciamo anche che l'esempio della Juventus dall'anno scorso a quest'anno, la ricostruzione, diciamo, è nata non sempre, no? Attraverso delle star, ma sembra che, insomma, sia adesso in voga il nuovo motto, che è quello del gruppo, di fare gruppo. Insomma, questa Juventus ha vinto uno scudetto con qualità, ma soprattutto mostrando in campo una tenacia che finiva forse dentro gli spogliatoi. Sì, quindi, questo sì. Però ecco, è un dato di fatto che in questo inizio di mercato la Juventus sia regina assoluta, e ragionavo questa mattina addirittura sia alle prese con una quasi nuova rivoluzione che non era neanche ipotizzabile, perché insomma si parlava di interventi mirati, la Juve sta facendo interventi mirati, però ecco, li hai citati te, Isla, Asamoah, il ritorno di Giovinco, che è un ritorno che secondo me ha un suo senso, perché Conte cercava un giocatore che fosse poi in grado di rompere gli equilibri, e Giovinco ha quegli strappi che ti consentono di rompere gli equilibri. E poi non è finita, perché al di là del contorno da El Kadri a Pogba c'è il famoso top player ancora da prendere, forse c'è anche un esterno sinistro in un centrocampo eventualmente a 5, un giocatore da prendere in quella zona di campo lì, e, insomma, secondo me la Juventus ancora un due o tre cose le fa. Senti, ma ti ricordi un anno fa quando c'era Marotta che girava l'Europa con i soldi in bocca e nessuno lo guardava? Si era parlato di addirittura, ma non ha l'esperienza, non ha il physique du rôle, non è abituato a trattare a questi livelli, andava lì, andava a bussare alla porta di Agüero, e no, niente Agüero, sì. Niente Agüero, allora dove andiamo? Higuain, no, niente Higuain, nessuno gli dava retta, adesso sì. Invece sono gli altri che lo chiamano. Eh sì, perché evidentemente insomma la Juventus ha saputo ben operare. Io dico che forse era ingeneroso chi un anno fa insomma relegava Beppe Marotta a questo ruolo così quasi da gregario, perché insomma è probabilmente uno dei dirigenti amministrativamente, ma poi anche sul campo, grazie allo staff di collaboratori che ha, e non dimenticherei De Paratici, che è un profondo conoscitore di calcio e l'uomo che poi gira l'Europa e il mondo cercando giocatori. E il recupero di fascino, secondo me, arriva con i risultati, sì. Arriva con, anche con la progettazione, con il nuovo stadio, certo. Con l'idea di aprire un ciclo, che è del tutto possibile, sì. Almeno sul fronte italiano, perché come detto io vedo la concorrenza molto lontana rispetto alla Juventus. Mi intriga molto questa idea Balotelli, non so quanto sia fondata, adesso me lo dici tu. Tra l'altro, se c'è da scegliere tra lui o Van Persie, a parte che io mi prendo Balotelli, ma poi sono due belle teste ricamate comunque, cioè, anche Van Persie non è esattamente il prototipo di quello che non pianta casino, eh? Assolutamente no, però insomma così, diciamo una battuta, qualcosa agli allenatori dobbiamo fargli fare. Eh sì, un po' di lavoro bisogna, e anche a noi un po' di lavoro bisogna darlo. Anche un po' di lavoro a noi, insomma, Antonio Conte è uno che lavora anche tantissimo sul campo e con delle idee, però evidentemente una testa calda gli toccherà in qualche maniera gestirla e amministrarla. Sai, Balotelli è un'idea, io dico è forse qualcosa di più di un'idea, perché non è una cosa che nasce adesso, è qualcosa che da questa primavera in qualche maniera torna e ritorna nelle stanze dei dirigenti bianconeri, e è un'opportunità su cui ragionare, perché credo da questo punto di vista i dirigenti della Juventus sono stati abbastanza onesti, cioè loro non è che dicono noi vogliamo Van Persie, loro dicono noi abbiamo Van Persie, Suarez, e poi abbiamo una serie di situazioni, se Van Persie lo prende il City, scritto oggi, il City non potrà fare l'album delle figurine, cioè non potrà tenere Zeko, sì. Non potrà tenere Balotelli e Agüero e Tevez, certo. E quindi si creeranno delle opportunità di mercato nelle quali andare comunque ad individuare giocatori che sono di un target medio-alto, che è poi il target che in questo momento serve alla Juventus, che torna in Champions League. Ascoltatori su Twitter invitano a stringere i tempi per Verratti, lui è il dopo Pirlo, ci serve, ci servirà. Sul dopo Pirlo, vabbè, andiamoci piano, perché stiamo parlando di un campionissimo assoluto. Verratti sembra un bel giocatore, può diventare magari un grande giocatore, ma la distanza è ancora tanta. Senti, per chiudere, sì. Ma Milan e Inter, per l'appunto, dove vanno? Oggi Galliani ha detto mercato strachiuso, poi pare si tratti ancora destro, quest'asta per destro con Milan, Juventus, Inter, Roma. Con il rispetto che gli dobbiamo, perché anche lui è un vecchio tra virgolette navigante, mercato chiuso insomma ce lo dice tutti gli anni a luglio, poi, sì. Poi qualcosa succede. Io credo sia sotto gli occhi di tutti che in casa Milan c'è un coperchio su una pentola, e dentro la pentola c'è Ibrahimovic. Secondo me il Milan sta aspettando di capire che cosa succede, sta aspettando di capire se Mino Raiola arriverà con il suo assistito e si metterà seduto e comincerà il balletto, che per carità, da manager affermato di giocatori importanti gli spetta anche, è quello che sa fare, e da lì poi qualcosa può succedere. Per il resto, il rinnovo di Thiago Silva mi sembra un passo obbligato dopo avergli prima prospettato, certo. E poi negato i milioni del Paris Saint-Germain. Sì, però ecco, secondo me dal Milan ci possiamo aspettare qualche cosa sul fronte Ibrahimovic, e poi forse qualche altra cosina in mezzo al campo, dove credo sarà necessario, al di là di Montolivo, fare altro. Sì, quantomeno dal punto di vista numerico, visto che la diaspora è stata, sì, è stata considerevole. Esatto, esatto. Grazie, e Fabio. Mi dicevi dell'Inter, ti lascio. L'Inter secondo me risolverà questo diciamo, problema dei 2 milioni che separano, che la separano da Silvestre, e poi anche lì, secondo me, dalle cessioni si capirà quello che può fare l'Inter, secondo me, soprattutto davanti, perché bisogna vedere se poi fino alla fine di agosto Pazzini resterà veramente dove sta. Mi assumerò tutte le mie responsabilità quando avrò le prove della mia paternità, dichiara Mario Balotelli a proposito della maternità della sua ex fidanzata Raffaella Fico, e racconta in un comunicato: qualche giorno fa sono venuto a sapere da terzi che Raffaella era incinta, per questo ho deciso di contattarle solo in seguito alla mia domanda. Mi ha confermato che era vero. Sono molto deluso, non credo sia normale non sapere nulla fino al quarto mese. Impegnato in altre faccende a questo punto Mario Balotelli, magari a voi non interessano queste cose, o fate finta che non vi interessino, ma sono cose che tutti spiano poi dal buco della serratura. A proposito di Balotelli abbiamo un giudizio illuminato del professor Paolo Di Canio. Istintivamente, ancora forse un bambino, ma un egoista, pensa che il mondo debba gravitare tutto intorno a lui, non gli si possa richiamare, invece lui ha bisogno proprio di schiaffoni se vuole crescere, ma schiaffoni veri, benevoli. Perché poi nella finale ho visto la volontà di un giocatore di lottare, ma mi è sembrato molto, molto, perché ancora ha queste scorie dell'egoismo individuale, del risultato, mi tolgo la maglia, ci penso prima perché voglio far vedere il fisico, so bello, cioè non stai pensando al calcio, stai pensando al contorno, alle cose frivole del calcio. Invece Di Cani è uno che non ha mai fatta mezza nella sua carriera di queste cose. Gesti eclatanti da una parte e dall'altra, da quel pallone fermato, principe del fair play, a molte altre cose. Sugli schiaffoni glisserei anche per non rivangare le idee politiche di Di Cani che conosciamo benissimo. Loris da Piacenza e Andrea da Treviso. Loris, buongiorno. Buongiorno a lei, senta. Buongiorno. Io volevo intervenire un attimo sul tema Juventus, sì. Ricordando la centrifuga in cui cadono tutti i centravanti di questa squadra, perché Boriello, Matri e Quagliarella sono stati utilizzati per rincorrere gli avversari, sì, per 60 minuti. E infatti poi la Juve va al gol con n giocatori. Quindi, bravissimi a inserirsi da centrocampo soprattutto. Sì. Esattamente, però una valutazione in sede di mercato: se si cerca il top player magari in attacco, bisogna che qualcuno spieghi a Conte che il top player non farà la fatica che ha fatto Matri, non farà la fatica che ha fatto Boriello e non farà mai la fatica che poco fa Quagliarella. Sì, Loris, quindi, però c'è anche la possibilità di cambiare, no? di allungare le rotazioni. Alla Juventus, palesemente in questa stagione, mi vengono in mente i tanti pareggi interni, le tante partite che la Juventus non è riuscita a sbloccare in maniera corale. Ecco, alla Juventus manca il giocatore che con un colpo riesce a risolvere questo tipo di gare. Giocatore che non è il pur bravissimo Matri, che ha giocato mezza grande stagione, non è Boriello, non è nemmeno Fabio Quagliarella, che ha un ruolo e caratteristiche diverse. Gli acquisti della Juventus mi fanno pensare che Conte voglia costruirsi anche delle alternative ad un gioco che è stato efficacissimo, ma giocato molto sulla rabbia, sulla fame, sull'agonismo, sulla voglia, sulla dedizione assoluta. Questo poteva essere un discorso a termine fino allo scudetto conquistato. Adesso questa squadra ha bisogno di qualità, quindi non più di centravanti che rincorrono come terzinacci, ma di centravanti in grado di risolvere gare complicate con un colpo di genio. E sono caratteristiche proprie di Van Persie, sono caratteristiche proprie dello stesso Balotelli, un po' meno di Higuain, che è un giocatore che ha bisogno di arrivare al gol attraverso il gioco della squadra. Andrea da Treviso. Buongiorno, Tom Genta, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un intervento sull'Inter, però mi fa sgorgare il fatto che mi viene a dire da che pulpito. Esatto, da che bravo. Pulpito. Da che pulpito. Veramente da che pulpito. Da, cioè, uno che non ne ha mai fatte. Palotelli, sono interista, non sono suo tifoso, perché ho ancora in mente la mia bella semifinale col Barcellona in cui il buon Samuel Eto'o con due palloni d'oro faceva il terzino e lui buttava via la maglia. Ma detto questo, da che pulpito? Sì. Detto questo, chiuso pupitolo. Poi detto anche questo, non mi sembra ci sia molto da rimproverare al comportamento anche di Mario Balotelli nel corso di questi europei, salvo quell'esultanza stupida, inspiegabile, poco felice dopo il gol contro l'Irlanda. Però non mi pare che, forse il tutor Cassano ha funzionato, non mi pare che i due abbiano combinato grossi guai. Sì, il mio intervento era sull'Inter e sul concetto del ridimensionamento che stavate parlando prima con il suo collega. Io credo, da tifoso interista, che sia assolutamente inevitabile. Non abbiamo raggiunto la Champions, quindi già abbiamo sbagliato il timing due anni fa dopo aver vinto la Champions. Ora è un timing obbligato, certo, credo certo. Sia obbligato però per Moratti essere coerente nel tempo, quindi nel momento in cui mi dice certo che punteremo a vincere, ci sta da un punto di vista mediatico, però è chiaro che se punti sui giovani sai che per 3-4 anni devi aspettare il lungo, devi aspettare tutti questi ragazzi, e deve essere abbastanza chiaro nei confronti, diciamo, ha ragione, nei confronti. Io coscientemente ne sono, credo che sia giusto, ma credo così, anche Andrea, credo anche che i tifosi siano prontissimi ad accettare un discorso di questo tipo, a patto di non prenderli per il naso, di non vendere fumo, perché l'Inter che sta nascendo non mi sembra una squadra competitiva in Italia, né tanto meno a livello europeo, nemmeno per l'Europa League. È chiaro che molto deriverà dalle cessioni di alcuni senatori, sono tutti sul mercato, sui banchi dei saldi, e da lì, dalla cessione di questi, poi si ripartirà con i soldi che ci sono in cassa. La sensazione è comunque che i soldi che ci sono in cassa non siano moltissimi. Noi ci occupiamo tanto di paroline maliziose e bestemmiacce in campo. È bello vedere oggi i fotogrammi di Casillas che sul 4-0 della finale di domenica, visti 3 minuti di recupero, chiede all'arbitro rispetto per l'Italia. Poco rispetto ha avuto invece, pochissimo, anzi zero rispetto ha avuto nei confronti dei colleghi che erano davanti alla Lega della Lega Calcio. Pochissimo rispetto ha avuto e pochissimo fair play ha avuto il presidentissimo De Laurentiis. Per quanto riguarda il mercato, Cavani, com'è la situazione? Abbiamo detto di... Ma il mercato, ragazzi, chi si è arrabbiato? No, si è detto oggi che si era un po' arrabbiato. Io? Con la gente di Cavani. Guardate, poiché il mondo delle comunicazioni non fanno altro che dire solo cazzate, io ormai non mi arrabbio, né mi diverto la mattina, qualche volta leggevo tutto quanto, adesso non perdo nemmeno più tempo, perché è come se io leggessi un film scritto da altri meno che dal sottoscritto, e quindi non vale la pena, no? All'inizio, che non conoscevo il mondo del calcio, mi inquietavo, adesso non mi voglio più inquietare, perché ho detto che i giornalisti di calcio sono dei gran cafoni, perché sono interessati soltanto, no, glielo dico a lei, sa perché? Ma io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua, sa perché? Lo sa perché o no? Perché non si può parlare nella vita solo di soldi. Noi nel cinema siamo dei gran signori, perché di Brad Pitt e di Angelina Jolie non si dirà mai qual è il proprio contratto, mentre invece a voi vi interessa soltanto sapere quanto vale un giocatore, per quanto è stato venduto e quanto guadagna. Andrea Longoni da Tele Lombardia ha rischiato 2 pizze da De Laurentiis. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio. Andata così, no? Tu gli hai detto non si permetta. Sì, non si sentiva benissimo. Io ho detto, mi scusi, Cappone lo dice qualcun altro. Ah, lui ha insistito, sì. Ho detto non si permetta. E a quel punto è esploso dicendo le metto anche le mani addosso, eccetera, eccetera. io ho ritenuto fosse il caso magari di non continuare a rispondere, altrimenti sarebbe davvero arrivato alle mani. Alla fine però gli ho fatto presente con molta educazione che nessuno aveva parlato di soldi e quindi si poteva tranquillamente risparmiare quel complimento, chiamiamolo così. No, ma poi racconta, certo. Perché insomma, qui Lega Calcio, chi frequenta questo parcheggio, chiamiamolo così, sa benissimo che De Laurentiis è spesso un po' poco rispettoso nei confronti della nostra categoria, irriverente a volte, insomma non parla quasi mai, ma lo fa anche in modo molto sgarbato. E quindi oggi c'era tra i giornalisti questa idea di una sorta di ammutinamento, di non fare domande a De Laurentiis. È arrivato infatti il presidente del Napoli e nessuno gli ha fatto domande. Lui si è fermato e ha detto: ma come, oggi nessuna domanda? E i giornalisti, noi giornalisti gli abbiamo detto: no, oggi niente. E lui ha iniziato ad attaccare dicendo: vi sbagliate, perché noi facciamo questa amichevole, quest'altra amichevole. Insomma, ha fatto un panegirico sulle amichevoli che farà il Napoli, cosa che probabilmente interesserà soprattutto i tifosi del Napoli, in questo caso non a noi, per cui insomma è più caldo il tema mercato, come potete immaginare. A quel punto un collega gli ha fatto quindi la domanda, però io poi non ci ho visto più quando ha offeso, insomma, in caso di non farci mettere i piedi in testa. Abbiamo le nostre pecche da categoria, però arrivare a questo punto assolutamente no. No, hai ragione, ma poi mi pare normale che si parli di soldi e non di caramelle. Questo è il calciomercato, e di che parliamo, o no? Se De Laurentiis fa bene il cinema, può insegnare a fare il cinema, però fino a prova contraria il giornalismo magari dovrebbe fare qualche corso prima di voler insegnare a noi giornalisti come si fa il mestiere. Ma sai, lui non ha bisogno di domande, lui va a ruota libera così come gli viene, poi spesso piscia fuori dal vaso, ma questo lo abbiamo imparato. Andrea, grazie, e stai attento all'uscita, stai attento all'uscita. Sì, adesso vediamo se dopo... succede ancora qualcosa, al massimo ci risentiamo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Invece poi vi faccio anche ascoltare un Ancelotti in franco milanese, questo più tardi. Ancelotti qui hanno preso Lavezzi, ma i suoi problemi, perché ci sono diversi giocatori ai ferri corti con lo staff tecnico, leggo oggi, da Sacco a Nenè a Garnero a Chatham, che vogliono andare via dal Paris Saint-Germain. Federico. Buongiorno. Io volevo intervenire ancora ieri riguardo alla nazionale italiana di calcio. Sì. E praticamente al netto dell'ottimo risultato della nostra nazionale, io sono convinto che è una delle nazionali più scarse come minimo degli ultimi 20 anni. La nostra? Sì, esatto, per semplice motivo che prendendo gli 11 titolari della finale rispetto a quelli della Spagna, a parte penso 3 calciatori, Buffon, De Rossi e Pirlo, tutti gli altri sono molto mediocri, per semplice fatto che mentre la Spagna si presenta con, se non sbaglio, 5 giocatori titolari del Barcellona, 3 titolari del Real Madrid e anche le riserve comunque fanno parte di queste due squadre, noi giocavamo con Balzaretti, subentrato a Chiellini, che è titolare di una squadra di metà classifica, Abate, che sicuramente non è titolare lo nel so, Milan. Federico, no, beh, è titolare nel Milan, altro che, però mi sembra che così stiamo facendo un po' il gioco delle figurine, no? Non credo che questa, assolutamente, che questa nazionale fosse una delle più scarse degli ultimi 20 anni, anche perché basta andare indietro di un paio d'anni ed arrivare al mondiale sudafricano. Beh, io mi tengo questa tutta la vita. Loro sono più forti, lo sapevamo, loro giocano insieme da molti anni, loro non a caso hanno vinto 2 europei e un mondiale in mezzo, e sono, insomma, sono una squadra che ha una continuità impressionante. Io invece in questa nazionale leggo e vedo dei germi di grande potenzialità, perché se Buffon, De Rossi e Pirlo sono le 3 nostre vecchie superstar, vedo del buono anche in quelli che c'è dietro, perché per esempio Marchisio è un giocatore di livello europeo assolutamente, perché Balotelli, secondo me, con tutti i difetti che ha, e continuo a dirlo, ha le potenzialità, speriamo anche un minimo di cervello, per diventare una superstar a livello europeo. Dunque non ci vedo così scarsi. Mancava Giuseppe Rossi, Cassano è forse a fine corsa in azzurro, Montolivo è un giocatore che può crescere ancora. Insomma, io vedo, poi c'è Destro, poi c'è Ogbonna, poi c'è una difesa che anche lì non giochiamo con le figurine. La difesa italiana è stata straordinaria in due giocatori che non sono dei top player, per usare un'espressione di moda, come Barzagli e Bonucci, ma che hanno giocato un europeo straordinario. Quindi non mi sembrava che questa fosse la nazionale peggiore degli ultimi 20 anni, tutt'altro. Andiamo a Torino. Non riesco. Mi dice il suo nome, perché io non riesco a leggere. Ecco, ho capito quando ha detto andiamo a Torino. Chefki. Allora, diciamo Shafik. Shafik è un nome arabo, quindi io ascolto da 10 anni Radio 24. Bravissimo. Non cambio mai canale. Lei di dov'è? Sono sempre con voi. Sono di Casablanca. Casablanca. Sì, però abito a Torino da oltre 15 anni. Io volevo intervenire, intanto complimenti per la trasmissione, volevo intervenire, veramente ieri ho visto su Sky 24, ho visto l'intervista a Paolo Di Canio e veramente mi è venuto solo un disgusto, perché avete detto già prima da chi pulpito, ma... quello degli schiaffi a Balotelli? A me piace, sì, è un ragazzo come tutti i ragazzi giovani di oggi, italiani, come tutti i ragazzi, ma non solo italiani, io viaggio nel mondo e vedo tutti questi ragazzi giovani così, hanno un po' di presunzione, devono imparare un po' delle cose, ma e la vita è così. Devono imparare tante cose e poi se sono popolari al centro d'attenzione con le tasche piene di soldi, il problema si complica. Non criminalizzerei Balotelli per quello che fa o che ha fatto. Ha fatto un sacco di sciocchezze, però secondo me conserva la possibilità di crescere anche senza gli schiaffoni di Di Canio, conserva la possibilità di diventare un grande giocatore. Il vero peccato sarebbe quello di non sfruttare il grandissimo talento che ha. Dica. Una cosa? Certo che può. Sì, solo una cosa. Il signor Di Canio si ricorda quando faceva il saluto di estrema destra, quando segnava un gol e togliava la maglia? Credo se lo ricordi perfettamente, anche perché l'ha fatto, anche perché l'ha fatto non soltanto una volta. Però non vorrei scendere in quei discorsi, anche perché quelle punizioni corporali fanno parte probabilmente di un certo credo mai nascosto di Paolo Di Canio. Lascerei stare gli schiaffoni, naturalmente. Grazie. Gianaldo da Bologna. Gianaldo, sono Gianaldo Traversi Vivarelli, sono un collega, Carlo, sì. Guarda, non di sport, anche se sono capo del sport, un giornale nazionale per qualche anno, sì. Mi occupo però di cultura e spettacoli. No, condivido in toto l'analisi che hai fatto riguardo ai valori assoluti di questa nazionale, e mi permettevo solo con molta umiltà di dissentire sul concetto di top player. Giovinco è un top player. Destro è un potenziale, ma Giovinco forse potenziale, perché però quest'anno ha fatto delle cose che gli umani raramente. Attenzione, definizione di top player non la so nemmeno io, però io me lo immagino come un giocatore in grado di spostare gli equilibri a livello europeo, quantomeno. Giovinco probabilmente ce l'avrà questa possibilità, probabilmente neanche le potenzialità, però lì non è ancora arrivato. I numeri ce li ha, perché non ha avuto il palcoscenico giusto per dimostrarlo, poi insomma i numeri ce li ha. Quando uno ti salta quattro avversari, poi ti fa un gol strepitoso, oppure ti fa un assist straordinario per intuizione, per percezione degli spazi, insomma, i numeri ce li ha, Carlo. Io l'ho visto più di una volta così. Tre cose, voglio dire. Poi su Montolivo può crescere indubbiamente, ma è a livello dei più forti centrocampisti europei, ha tutto, fisico, tecnica, a tiro, ha un limite, non ha una personalità spiccatissima. De Rossi. Ecco, non ha una personalità. Anche se è stato molto intelligente nell'interpretare un ruolo estremamente difficile, no? Prandelli gli ha chiesto di camminare sul territorio delle mine, cioè tra la linea di centrocampo nostra e quella di difesa della squadra avversaria, lì dove di spazi non ce ne sono, e di inventarsi pure qualcosa e di rincorrere l'avversario. È un ruolo estremamente complicato e mi ha sorpreso positivamente l'intelligenza tattica di Montolivo nell'interpretare questo ruolo, ma è un giocatore ormai maturo, no? Adesso serve il passaggio definitivo tra era promessa, poi eterna promessa, poi promessa quasi mancata, poi giocatore simbolo della Fiorentina, poi una stagione sbagliata come quella appena trascorsa. Ebbene, Montolivo adesso è atteso al salto definitivo in rossonero come in azzurro. Vado a Bergamo da Giulio, anzi prima di andare da Giulio a Bergamo vi voglio far sentire un divertente Carlo Ancelotti in milanese francese. Je pense que les joueurs, comme lui, il a être seulement focalisé sur le jeu. Pour donner une bonne image sur le terrain. Et tous les joueurs qui ont une qualité comme lui, il a là. Parce que je pense que Menez, il a beaucoup de fans, beaucoup de jeunes supporters. Et pas bon pour lui, pour l'image de lui, qu'il va faire un comportement mauvais. Non ho la minima idea di cosa abbia detto, ho percepito un bon per lui, per la image de lui. Grandissimo Carletto Ancelotti, che avrà le sue belle grane quest'anno al Paris Saint-Germain, perché si trova, come in molte altre occasioni nella sua carriera, costretto alla vittoria. Non ci sono altri risultati. Giulio. Eccomi. Eccoci. Sono un po' emozionato, devo dire. Anch'io. Ma ho sentito un attimo fa il non Ancelotti ma il vecchio Totò parlare, perché mi sembrava... Mi sembrava un po' una riedizione delle frasi di Totò. Sì. Io la chiamavo solo magari per dire un po' cosa... Scusi, magari più Gino Bramieri, Più Gino Bramieri. Più Gino Bramieri, sì. Ecco, io volevo chiedere una sua opinione un po' in merito a quello che poteva essere il centrocampo, sentivo che parlate di Montolivo, eccetera, del Milan. Sì. Io sono molto dispiaciuto di Aquilani, perché secondo me sarebbe una grossa perdita, avendo già un giocatore così forte. E poi se eventualmente... Potrebbe essere vista di buon occhio una partenza di Pato e magari un arrivo del matto Balotelli, insomma, che secondo me andrebbe veramente a sistemare la squadra in modo perfetto in questo momento. Volevo un po' una sua opinione, ecco. Ma la mia opinione, quale vuoi che sia, anche secondo me Aquilani è una perdita per il Milan in un momento in cui si tratta di ricostruire. È una vicenda lunga e complessa questa del Liverpool, del prestito, del diritto di riscatto non esercitato, eccetera eccetera. È una vicenda proprio contrattuale piuttosto lunga e complicata, quindi non è ancora escluso, credo, che Aquilani possa restare, e penso che il Milan ne avrebbe un gran bisogno. Quanto alla partenza di Pato, chi se lo piglia in questo momento? Pato infortunato, plurinfortunato e lungo de gente, è un giocatore che penso faccia una grande fatica a trovare mercato a quotazioni elevate. Se non è andato in inverno al Paris Saint-Germain, le ragioni ci saranno, fate voi quali. In questo momento è un giocatore molto molto a rischio, è un giocatore convalescente, è un giocatore che potenzialmente vale molto e chiama molto denaro come ingaggio, ma non sai che cosa ti può dare, quindi è un rischio assoluto che non so quanti potrebbero aver voglia di correre. Quanto a Balotelli al Milan, se ne è parlato anche troppo, ma non credo sia aria di Balotelli al Milan, a meno che la vicenda Ibrahimovic riporti complice l'amico Mino Raiola, riporti su queste sentieri, su queste tracce. C'è un ascoltatore che domanda se Giovinco è un top player, Fabregas cos'è. In effetti la distanza è quella. Giovinco, tutti ci auguriamo, anzi soprattutto in chiave azzurra, che possa diventare un top player a livello europeo. Attualmente è un giocatore di grande talento che ha fatto tanta gavetta, che ha fatto una grande stagione nel Parma, e quest'anno ha la sua grande possibilità. Altro ascoltatore che scrive: ma non vi siete accorti che, tolti Balotelli, Buffone, De Rossi, gli altri sono abatini senza il talento di Rivera? Domanda: senza le prodezze irripetibili di Balotelli, chi avrebbe segnato? Sono arrivati sopra i meriti. Caro ascoltatore, le controprove non le abbiamo. Balotelli ha segnato quei due gol fondamentali contro la Germania, ci ha portati dove ci ha portati. Diamanti ha segnato un rigore che ha eliminato l'Inghilterra. L'Italia ha giocato due grandissime partite con Inghilterra e Germania, ha meritato quella finale, avrebbe potuto giocare in maniera diversa. Ne riparleremo per un bel po' di tutte queste. Comunque si è dimenticato Pirlo, che è stato il migliore di tutti, caro ascoltatore. Carmine, Reggio Calabria. Sì, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Senta, io intervenivo per due cose. Una sul calciomercato e una sulla nazionale, una proposta sulla nazionale. Sul calciomercato le volevo dire, non le sembra che dopo Juventus e Milan, che credo che per il prossimo anno saranno protagoniste. La terza incomoda potrebbe essere la Roma più dell'Inter e del Napoli, perché la Roma ha un parco giovani secondo me di prima classe. E poi con Zeman, che secondo me è un grande allenatore, uno che li sa fare giocare, li fa correre, ma presenta un bel calcio. Poi non è vero che Zeman non vince mai nulla, l'anno scorso ha vinto il campionato fino a prova contraria. Bene, nessuno se l'aspettava. No, ma certo, non ha mai vinto scudetti, coppe, eccetera. In questi casi si tratta di intendersi sulle parole. È chiaro che ha vinto dei campionati, è chiaro che ha fatto delle grandi stagioni. Non è un allenatore che ha mai vinto, ad esempio, uno scudetto. Credo che la Roma possa essere qualcosa di molto interessante, di molto divertente. Quanto possa valere la Roma, io sinceramente non lo so, anche perché mi sembra che il mercato sia ancora in corso, siano arrivati dei giovani che sono poco conosciuti. Zeman ha appena iniziato a lavorare e mi sembra estremamente difficile capire dove possa arrivare la Roma. Io credo che divertirà, poi ci si diverte di più quando si vincono le partite, questa è una banalità assoluta. Diceva poi della nazionale, della io nazionale. Ho una proposta un po' scioccante, però gliela voglio addirittura dire. Vediamo allora, se riesce a scioccarmi. Allora, guardi, perché non fondare la nazionale su una squadra di club? Le spiego. La federazione si mette d'accordo con una squadra di Serie A, una grande squadra, e dice: tu devi avere solo giocatori italiani, li cresci tu nel vivaio, li integriamo con altri giocatori di altre squadre e li acquistiamo e fondiamo la nazionale su questa squadra di club. Cioè, quando giochi nel campionato italiano, poi quando ci sono le competizioni della nazionale, cambiano la maglia soltanto, l'allenatore rimane quello, come faceva la Dinamo di Kiev con l'Unione Sovietica. Secondo me sarebbe una buona cosa. Guardi, quello che lei dice, grosso modo, è il Club Italia, che è stato sperimentato ad esempio nella pallavolo, cioè una squadra che comunque partecipa a un campionato per club sotto egida federale. Mi sembra un po' bizzarra da attuare. Cioè, lei va dalla Juventus, dal Milano, dall'Inter o dal Napoli, da De Laurentiis, che si imbestialisce con i giornalisti e dice: senti, adesso tu prendi solo giocatori italiani, te li do io, te li faccio giocare io, e poi chi li vende, chi li compra, chi li valorizza, chi gestisce questa società. Mi sembra un'idea, caro ascoltatore, abbastanza bizzarra, diciamo così. Interessante, ma bizzarra. Non mi ha scioccato comunque, se è questo che voleva sapere, perché ne ho sentite di peggiori. Un salto al Tour de France per il fenomeno Sagan. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao Carlo, buon pomeriggio. È la nuova stella del ciclismo, il nuovo stellone del ciclismo internazionale? Assolutamente sì. È un prodigio, è da un po' di tempo che se ne parla in ambiente ciclistico. Certo, ci voleva una conferma, perché spesso e volentieri si è portati a osannare i ragazzi di 22-23 anni perché vincono magari due gare in Malesia, una in Thailandia o al Tour Down Under. Sagan ha vinto in ogni angolo già, perché pensa che solo 2 anni che è professionista, al suo attivo c'è già 36 vittorie, ha vinto quest'anno 14 gare del plurivittorioso stagionale a livello mondiale, e aveva da dimostrare proprio il palcoscenico più importante al mondo, che è quello del Tour de France, di che pasta era fatto, e lo aspettavano un po' tutti. Lui era curioso di vedere e verificare quanto fosse bravo al cospetto del mondo assoluto, ma anche i vari Gilbert, i vari Cancellara, i vari Cadel Evans, Wiggins e compagnia pedalante erano curiosi di vederlo lì, in questa grande rassegna di 3 settimane, e lui l'ha fatto vedere subito. Alla prima volata Sereng li ha lasciati lì, e ieri si è ripetuto. Pensa che il suo patron, il signor Liquigas Italia, che chiama Paolo Zanni, gli aveva detto, con il quale Sagan ha già, diciamo, siglato un accordo anche per il prossimo anno, l'aveva già fatto firmare un anno fa, quindi ha fatto un vero affare, visto che è un talento assoluto, e gli ha detto: guarda, se vai al Tour e vinci almeno 2 tappe e porti a casa la maglia verde ti regala una Porsche. Le due tappe le ha vinte, la maglia verde ce l'ha sulle spalle, adesso deve restare fino a Parigi. Sì, e poi torna a casa da Parigi con la Porsche. E dopo torna a casa a Parigi con la Porsche. E d'altra parte le promesse vanno mantenute. Ma che tipo di corridore è Pier Augusto? Può diventare un corridore per grandi corse a tappe? Per grandi corse a tappe al momento è troppo presto, perché bisogna vedere il recupero, anche se ha tutto per andare bene. Di sicuro è un grande cacciatore di classiche, sì, al quale può andare a genio dalla Milano-Sanremo a Lombardia, passando per il Giro delle Fiandre e la Liegi-Bastogne-Liegi. Cioè, è un corridore completo, è un moreno argentino, di fondo, con grande abilità di scattista, capace di districarsi anche negli arrivi affollati. I nostri come li stai vedendo in questo tour? Guarda, appena all'alba? Il tour deve ancora cominciare, come direbbero i bravi corridori, e difatti è così, anche oggi sarà una tappa per velocisti. Diciamo che è partito bene, Vincenzo Nibali lì, sabato dopo il cronoprologo era 14°, poi è risalito in 9ª posizione, ieri sera era in 7ª, sempre a 18 secondi dalla maglia gialla Fabian Cancellara, quindi diciamo che è lì, è in rampa di lancio, e poi questo fine settimana, quando cominceranno le prime salite, sabato e domenica, cominceremo a vedere, ad annusare un po' le reali forze che sono in campo e le ambizioni di ciascuno a cominciare. Certo. Nibali è tosto, uno che riesce sempre a dare il massimo, anche il 110%, è arrivato a questo tour. Bisogna vedere se può bastare contro i competitors, che sono ovviamente il top a livello mondiale, fatto salvo Contador, che come sapete non corre. Grazie per Augusto, ci sentiamo alla prossima. Grazie. Teniamo il polso del tour e chiudiamo con Antonio da Como invece. Buongiorno. Dica. E complimenti per la trasmissione. Senta, ma di che cosa vuole che parliamo domani? Ieri avete chiesto il calciomercato e vi abbiamo accontentati. Domani facciamo così, menu on demand. Tutto tour. Sempre, tutto ciclismo, perché ne ha bisogno davvero. Sì. Volevo dire una cosa. Sagan ha un colpo di pedale mai visto da 20 anni a questa parte. Non mi ricordo un corridore con un cambio di passo così e la Liquigas deve investire davvero su questi, non nulla togliere a Nibali, ma deve costruire il tour. Antonio, mi pare che ci abbia investito, no? Come ha sentito, il contratto è stato firmato l'anno scorso e vale anche per l'anno prossimo. È chiaro che è una grande stella che sta nascendo, e poi ci vorranno, come la legge del mercato, se De Laurentiis ce lo permette, vuole, ci vorranno i quattrini per trattenerlo. Antonio, grazie. Comunque di ciclismo parliamo praticamente tutti i giorni quando ci sono queste grandi corse a tappe. Abbiamo parlato di calciomercato, allora vi dico questa per salutarvi: Handanovic a un passo dall'Inter per 11 milioni più metà faraoni.